Sei tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù. Tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su. Senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più. Tra il buio del cielo, le teste pelate bianche, le nostre parole si muovono stanche, non ci capiamo, non ci capiamo, ma io voglio parlare. Voglio stare a ascoltare, continuare a far l'asino, comportarmi male, per poi non farlo più. No, no, no. Ah, felicità, su quale treno della notte passerà? Lo so che passerà, ma come sempre in fretta non ti fermi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si tratterebbe di nuotare prendendola con calma, farsi trasportare dentro due occhi grandi, magari blu. Per doveri liberare, attraversare un mare medievale, lottare contro un drago stravico, ma di draghi baby non ce ne sono più. Forse per questi sogni sono così pallidi e bianchi e rimbalzano stanchi tra le antennellesse delle varie TV. E ci ritornano a casa portati da signori eleganti, cessi che parlano, tutti che applaudono, non ne vogliamo più. Ma se questo mondo è un mondo di cartone, allora per essere felici basta un niente, magari una canzone. Oh, chi lo sa, oh, chi lo sa. Se non sarebbe il caso di provare a chiudere gli occhi, ma anche quando hai chiuso gli occhi, dimmi, dimmi, chissà cosa sarà. La riva. La felicità, su quale treno della notte passerà? Lo so che passerà, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. Felicità, su quale treno della notte passerà? Lo so che passerà, ma come sempre. Quale treno della notte passerà? Lo so che passerà, ma come sempre in fretta noi.